Ciao, sono Sonia, lei è la mia collega Sara e lavoriamo per la cooperativa Incontra. Oggi saremo qui per presentare un tema molto importante che è quello della fragilità, ma prendendolo da un punto di vista opposto, quali possono essere i punti forti delle nostre fragilità? In realtà nasconde o comunque ha sempre il lato positivo, il punto di forza di una fragilità. E questo l'abbiamo conosciuto sia durante il nostro lavoro, ma anche su un lavoro fatto sulle nostre stesse fragilità. La nostra idea iniziale era quella di farvi capire un po' l'ambito in cui lavoriamo e quello che noi pensiamo delle persone in generale. Allora, ogni persona ha delle fragilità, in queste fragilità ci sono dei punti di forza. Quindi attraverso questo video cercheremo di farvi capire un po' quello che noi intendiamo, che una disabilità non è per forza un punto di debolezza, ma se vista da un altro punto di vista si può arrivare a raggiungere anche obiettivi di vita importanti nonostante delle fragilità o delle disabilità. Nuovi sguardi, disabile o persona? Anche se una persona ha delle fragilità e tutti noi le abbiamo sicuramente siamo persone con molte abilità e nel momento che noi riconosciamo le nostre fragilità dobbiamo trovare lo strumento per affrontarle. Differenza e diversità non sono un sinonimo, la differenza è nella natura delle cose, siamo tutti diversi, la diversità invece è un giudizio che etichetta. Ogni persona ha delle qualità e a volte questi limiti che la vita o che un po' la situazione crea nella persona in realtà sono quello step che aiuta la persona nel momento che lo supera ad essere più forte, ad avere un altro punto di vista rispetto alla sua fragilità. Né sfigati né supereroi. Occhio allo sguardo. Indipendentemente dal fatto che abbia una disabilità o meno, è prima di tutto una persona con delle abilità e queste abilità creano degli strumenti, uno scudo che gli permette a tutti noi di affrontare la vita, che a volte arriva anche la sofferenza, il dolore normale nella vita. Però se tu hai questi strumenti riesci a superarlo e a essere più forte, crea carattere. Togliamoci le lenti deformanti del pietismo e dell'eroismo. Siamo persone. Step successivo è non solo non giudico, ma io vedo le tue forze, io vedo i miei punti di forza. Allora in questo caso io ti vedo come persona e non vedo la tua fragilità, ma vedo quanto sei potente, quanto riesci a essere grande e quindi riconosco anche il mio essere grande, il mio essere forte nella vita. Impariamo a distinguere un limite oggettivo dalle barriere create dalla società.